cielo si estende, paracadutista nei sogni notturni, vola tra stelle e sogni senza confini. Le ali immaginarie, il coraggio nel petto, lui sfida l'abisso, il suo destino perfetto. E poi da grande la realtà si fa strada, nella folgore entra, la vita è rischiosa e audace. I salti nel vuoto, l'adrenalina che sale, il vento che sibila, la paura che svanisce. E lui con i paracadute aperto sorride, nel cielo azzurro il suo sogno si compie. Anni passano ma la passione non muore, ancora va in zona, lancia con occhi che brillano, riprende i paracaduti visti come un angelo custode, e il cuore gli sussurra: sei tornato a casa figlio. Terra e cielo, pente denti, la canzone non muota di sogni e coraggio, di cieli e di pianta, il bambino che volava ora uomo nel vento, tra terra e cielo, il suo spirito libera te. Terra tente, e all'immaginare il coraggio nel vento, lui sfida l'abisso, il suo destino perfetto. E poi da grande la realtà si fa strada, nella folgore entra, la vita è rischiosa e audace. I salti nel vuoto, l'adrenalina che sale, il vento che sibila, la paura che svanisce. E lui con il paracadute aperto sorride, nel cielo azzurro il suo sogno si compie. Suo spirito libero.